Io tra l'altro non avevo ancora passeggiato per il centro. Ecco, quindi questa è l'occasione. Mi faccio anche un'idea, perché sono bellissimi questi specie, non so, li chiamerò carruggi per farmi capire. Queste vie, questo possiamo magari... Dobbiamo provare la ciasteria. Vabbè, ciao! Buongiorno! Buongiorno! Salve! Salve! Siamo... Tanto le diciamo che siamo di Radio Antidoto, stiamo qui 2 giorni, oggi e domani, e stiamo cercando di ascoltare un po' le voci di Ormea. Ok. Se ti vuoi presentare, io sono Cristina. Io sono Francesco. Ok, ma vi mando il titolare, va? Vabbè, ma sì. Va, come vuoi, però... No, io mi vergogno. Vabbè, però dici almeno come ti chiami. No, io mi chiamo Angie. Angie, bene. E di Ormea? Sì, ho preso la residenza con mio compagno. Yeah, voilà. Ah, ok. Allora in famiglia. Ah, vedi, però qui abbiamo non soltanto il gelato. Però è un'azienda che alleva. Infatti. E poi adesso ha aperto anche questo vendita diretta. Ciao. Ciao, buongiorno, siete giovanissimi quindi. Sì. Allora, come dicevo alla tua compagna, siamo di Radio Antidoto, stiamo qui oggi e domani e ci piacerebbe, cioè avremo desiderio di ascoltarvi un po', sentire un po' di voci di Ormea, se hai voglia di raccontare la tua esperienza e se sei qui, di qui, la tua famiglia e dove ti immagini nel futuro. Allora, diciamo che io sono di qua, sono nato a Cebu, sono vissuto sempre a Ormea e ho fatto la scuola. Intanto posso chiedere quanti anni avete? Quanti anni hai? Io 28 e lei 23. Okay. Wow. E niente, io ho studiato all'alberghiera Mondovì, quindi ho fatto tutta la scuola superiore lì e dopodiché sono andato a fare un po' di esperienza a Cuneo, quindi mi sono trasferito per 5 anni là, in cui c'era già mio fratello, che lui fa pasticcere, però vabbè, altro discorso. E dopo 5 anni ho deciso di tornare qua e dato che mia madre è un'azienda agricola, quindi produce formaggio, latte e questa cosa, ho detto proviamo a fare il gelato. E poi quando avete aperto? Non hai tanto che abbiamo avete... aperto nel agosto 2023. Ah, ok. Che c'è scritto lì, a me non me lo ricordo sempre. Quasi 2 anni. E quindi facciamo un po' di nostri, diciamo, quindi è un'agri gelateria, perché il latte è proprio il nostro, e oltre a quello facciamo gli yogurt, e poi vabbè altri prodotti, tipo lo zabaglione alle castagne, eccetera, e il gelato alle castagne, che è una specialità, diciamo, se volete ve lo faccio assaggiare. Sì, volentieri. E il gelato alle castagne è fatto con le nostre castagne che raccogliamo verso settembre-ottobre, poi le facciamo seccare nei nostri seccatoi. Voi avete ancora il vostro seccatoio? Sì. Perché so che molti sono andati persi, molti seccatoi in Valtanara, vero? Sì, e mio padre penso che sia l'unica di questa zona che c'è i seccatoi ancora. L'unica che... donna. Unica donna. L'unica donna a cui è concesso seccare le castagne. Perché dice il concesso? Perché prima non insegnavano alle donne a seccare le castagne, perché era una cosa prettamente maschile. E invece io ho avuto uno zio che non aveva figli maschi e quindi ha insegnato a me e porto avanti io, ma più che altro perché è un lavoro che richiede anche forza fatica. Fisica. E quindi ho proseguito questa cosa. Poi faccio parte del consorzio per la valorizzazione dei prodotti della Valtanaro e da lì siamo andati avanti e siamo funzionati. Pietro non ve l'ha detto, ma facciamo anche una birra con... Non scappare perché torno da voi. Fa anche una birra con le castagne, fa uno zabaglione con le castagne e tutta la frutta che usa, possibilmente prima quella reperibile in loco, certo, e poi eventualmente le fragole sono di sua cugina, i mirtilli sono di suo cugino, tutte aziende per tenere in piedi, cercato di coinvolgere esattamente le persone del territorio, fare sinergia è la prima cosa. Molto bene, grazie. E, appunto, come adesso poi torno da Pietro, perché così come vi immaginate? Il futuro? Sì. Il futuro è in me. L'agricoltura è faticosa. Finché resistono i premi agricoli comunitari che fanno litigare tutti, forse qualcuno concorrerà. Il giorno in cui non ci saranno più i premi, tutti se ne fregheranno del nostro territorio. È rimasta l'ultima mucca da mungere, e però io non credo che possa andare avanti, perché è veramente faticoso in questa zona qua. Si potrebbe, se la gente capisse che deve collaborare, finché non impariamo a collaborare, ognuno si fa il suo orticello e... No. Singolarmente si va poco lontano. Assolutamente, nelle filiere ho partecipato a 2 o 3 ed hanno avuto anche buoni risultati. Qui bisognerebbe che la sinergia fosse tra turismo, agricoltura e commercio. Spesso la domenica pomeriggio lei viene qua e trova i bar chiusi, quindi non abbiamo capito dove vogliamo andare. Io ormai mi avvicino a cederò, perché devo lasciare i miei figli, però sicuramente non andranno a fare gli allevatori. L'allevamento è duro. L'allevamento in montagna, con tutto quanto comincia a diventare difficile. Infatti nelle intenzioni c'è proprio quella di ridurre i caprini, perché correre continuamente dietro ai caprini, ai cani, a tutti i problemi è difficile reperire anche personale, cioè, e trovare qualcuno che rispetta gli animali quanto te. Io grazie al cielo per ora ce l'ho, però non è eterno, ha già una bella età, 53 anni di esperienza, quindi faccerei. Bene, grazie. Intanto grazie, torno ancora un momento da Pietro, vero? Vabbè, senza volerlo. Io, cioè, come dire, conosco di fama più ormai che le località circostanti. Sì, ma anche perché è il primo paesino, dalla Liguria di solito, dove chi è che si vuole fermare, prende un caffè. Perché ci spiegavano che sono aperti anche di domenica. Sì. Perché hanno domanda. Sì. Andiamo tanto sul passaggio. Certo. Poi mi sono dimenticato di dire che facciamo anche il gelato con latte di capra, quindi si chiama proprio fior di capra. E... quindi più digeribile, più per digeribile. Alcune persone che non possono, per il lattosio, eccetera. Mangiano volentieri, anche per la curiosità di assaggiare. Certo. Complimenti. E noi siamo qui anche domani, domani pomeriggio siamo di base al piano terra del municipio e faremo un gioco tutti insieme, proprio per provare, attraverso, giocando insieme, ad immaginare il futuro. È disegnato su Ormea, cioè un gioco che ha già girato in tutta Europa. Lì siamo Rosso 9 Radio Antidoto. Comunque Rosso 9 Radio Antidoto, Trasformatorio. Oggi in particolare siamo anche collegati con tantissime città italiane, perché questa attività della giornata di oggi ad Ormea è inserita in Open Studi Aperti, un'iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti. Quindi i professionisti, architetti che hanno voluto aprire il proprio studio, oggi in contemporanea siamo collegati con questo evento a livello nazionale. Vi aspettiamo domani pomeriggio, dalle 4 in poi siamo lì. Vabbè, ma non è che ordiniamo una vaschetta così li costringiamo, sì, a portarci, perché è un gioco, diciamo, per farla in brevissima, tipo il Monopoli, però non c'è nessuno che vince, e soprattutto è basato sulla sostenibilità e la condivisione invece che sull'arricchimento personale. Questo molto brevemente. Sì. Grazie. Grazie, grazie molte. Buon lavoro, ciao Pietro.